somigliante. Auschwitz da porto tartufi stava, ma cosa strana lì fatta l'olco. Il sarto, ma il vil, quello, fanne filibus. Oh mio senior, pagare si scrive con due G, una sola, grazie. Non pago, devotissimo Crisogono. Germania, Giosafatte, forse. Finché dunque non tuonino le trombe del giudizio, la vecchierella. Essa che fa, vedete, il figlio manda a cantar lite. Col pianger non raccatterebbe un chicco, o la inutil pietà. Tanti a noi pure, gaudiamo sigitur, io benedetto un solo. Sono fine con la vita, quella vita, quella vita. nasconde il suo pensiero. Pensieri, io n'ebbi, io pur gridato intorno. Germania, Germania, Germania. Ebbemmo tali eventi, dite, dite. Destino, dal sogno mio divino, sognai d'ardenzione, non più la sua ritorte, la gran visione avea, ma su turbe risorte, il puro frantergeo, darmi via frastuono, mi trinta il bei cavalle. Afferrai la penna, io come lessi in forte, un'arma ne farò, e la nuvella sorte di patria scriverò, sia antenna e sia mia nave, di tu tempesta. I palmi là sotto sconta il fallo natio. Cantiamo finché nasca l'idea che muti il sangue in pianto, la farsa in epopea. Juvenestum sumus, gaudeamus igitur, juvenestum sumus, posse cuntam juventutem, vos molestan se le cute, no sabemi comus, gaudeamus egitor. Germania spie, ogni patriota è più d'un delinquente. A quel Napoleone buffarsi uniai, tremar, tacere, e ciò stampar. Io odio giostre carta. E la neutralità. Senza damo e senza gioia, un uomo alla sua pipa è mai sa noia. Thank you. prima di to la via ed un arcangio al Madonnao tornare. È la messia de... Emissari sono, avremmo venne presto i falsi sacchi, olà, affrettate, vegliate attenti, volpi a guardia, presto, silenzio, caudi. Thank you. prenderà. Dunque non fosti a mai dimenticato. No, guarda. Mai veloci vi fo grazia, ma il primo allarme. Thank you. siam traditi, noi al mulino, al mal nascondiglio. Presto poi via, qui sotto mi calate, giù c'è un barcozzo, e via per fiume, addio, mi sono nella macina, addio. Thank you. eon son queste trombe e lo piacer e l'alme s'augmentano i cori no fiero